perché arrivare. Lei c'ha il ginocchio in testa, perché, perché è uno dei massimi esperti la... di... è troppo innamorato del troppo. Ginocchio, professor Dan Kiesel. Vogliamo poi parlare anche della patata, vero? Sì. Io me ne vado, vi saluto. Ma... Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera, Rose. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cara la mia Nicoletta, se io ti dico che tari più tasi uguale yuk, tu che cosa mi dici? Ti frego perché mi sono preparata. LDL più HDL uguale colesterolo totale. Però dobbiamo tranquillizzare subito i nostri amici che ci seguono da casa, non parleremo per sigle. Anche se un po' di chiarezza su queste sigle ci farebbe molto comodo, almeno per capire che cosa si nasconde dietro a questi acronimi che a volte ci mandano un po' in confusione. Ci sono acronimi di cuore e acronimi di denari e oggi parleremo di IUC, la nuova imposta unica comunale che unisce tassa sui rifiuti e tassa sui servizi del comune e anche l'IMU in certi casi, due o tre in uno. Due in uno come per il colesterolo, quello totale infatti formato dalla somma dell'LDL, che è un acronimo per che sta a indicare lipoproteine a bassa densità, e quello di HDL, che sono le lipoproteine ad alta densità. Insomma, Deborah, non sono i corrieri che portano in giro i pacchi, no? Naturalmente. Guarda che però ti sei avvicinata, perché in effetti il colesterolo qualcosa porta in giro. Benissimo, il tema di cuore e denari di oggi è due in uno. E partiamo. Salva Danaio. Sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Sciogli, sciogli, sciogli, lingua, sciogli. Le parole sono solo in a dirle tutte queste sigle, sì. Ci si allena, è un vero scioglilingua, sì. Mi stavo impaperando, ma i mutasitari, yuk, tuk, trise. Guarda, come la metti devi pagarla comunque. Sì, ma sono quali esistono e quali non esistono più? Questa è... Grazie della domanda, perché sicuramente tu interpreti quella che si stanno facendo in questo momento molti proprietari di casa, molti contribuenti. Per fortuna che c'è con noi, anche se è vicino ma lontano, Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Buongiorno Cristiano, benvenuto. Buongiorno. Problemi di traffico, ma un po' magari se ce la facciamo lo recuperiamo, Cristiano, lo facciamo anche avvicinare qua nei nostri studi di Radio 24. Allora, tra tutte quelle sigle che Nicoletta Carbone ha citato poco fa, quali sono rimaste e quali non ne vedremo più? Allora, diciamo intanto che stiamo parlando di imposte che riguardano il 2014, perché per quest'anno siamo ancora con l'IMU e il governo dovrebbe decidere domani in Consiglio dei Ministri cosa succederà per il saldo sulla prima casa. Così intanto sgombriamo il campo da un primo equivoco. Possibile equivoco, sì. Esatto. Poi per l'anno prossimo avremo, e questa è la novità delle ultime ore, questa nuova sigla che si chiama IUC, che sta per Imposta Unica Comunale, che è in realtà una specie di ombrello sotto cui stanno diversi tributi. Allora, intanto ci starà l'IMU, che rimarrà per tutto ciò che non è prima casa. Poi ci starà la TARI, che prenderà il posto della tassa sui rifiuti che abbiamo pagato quest'anno e che a seconda delle scelte dei diversi comuni poteva avere tanti nomi diversi, e poi ci sarà un tributo, questo sì, nuovo di zecca, che riguarderà in qualche modo i cosiddetti servizi indivisibili dei comuni, cioè dovrebbe servire a finanziare la manutenzione delle strade, l'illuminazione pubblica, certo. Esattamente. E questo si chiamerà TASI. E attenzione, questo sarà pagato anche sulla prima casa, quindi l'aliquota la dovrà decidere il comune, potrà andare dall'1 al 2,5 per mille. Il comune potrà anche decidere di esentare del tutto la prima casa dalla TASI, però attenzione, se avrà i soldi, e questo è un problema, perché le finanze comunali negli ultimi anni in realtà non hanno avuto i margini per fare neppure le agevolazioni che pure l'IMU avrebbe dovuto consentire, quindi qui sarà poi un problema di equilibri di bilancio. Certo. Intanto la legge di stabilità precisa una cosa, sì, che queste nuove imposte, cioè la TASI e l'IMU sommate insieme, non potranno comunque costare più di quanto è costata l'IMU nel 2013, quindi non potranno avere le aliquote massime superiori a quelle dell'IMU. Attenzione, sì, però, dove l'IMU non era al massimo, comunque il rischio di rincaro c'è. C'è da qualche parte. Allora, qualche chiediamo ai nostri ascoltatori se hanno capito tutto bene. Non possiamo dire se sono soddisfatti, perché no. 800 24 00 24, il nostro ospite è a vostra disposizione. Esatto, anche al 349 238 6666. Quindi il primo grande equivoco, Cristiano, che sicuramente abbiamo sgombrato, è che la IUC non è la nuova IMU, sono proprio appunto due questioni diverse. Esatto, ecco, esatto. Perché... la IUC in pratica è una sigla che raggruppa diversi tributi. Mm-hmm. Poi, tra l'altro, il disegno di legge di stabilità che ha avuto ieri, anzi stanotte, l'ok dal Senato, fa anche una cosa lodevole che speriamo non si traduca in una mera così dichiarazione di intenti, e cioè dice che i comuni dovranno mandare a casa di ogni proprietario, di ogni contribuente, un bollettino calcolando quindi l'IMU, dove dovrà essere ancora pagata, la TASI e la TARI, quindi facendo loro finalmente il conto ai cittadini ed evitando esatto. tante complicazioni. Hai di fatto calcolo. Un'altra precisazione importante, Cristiano, perché anche questo è un aspetto che molto spesso genera molta preoccupazione per i contribuenti. Mi è capitato anche qui in ufficio appunto con una collega che mi abbia chiesto se Milano avrebbe mandato in questo periodo appunto il nuovo calcolo dell'imposta sui rifiuti, perché credo proprio che in questi giorni tu abiti a Milano, poi magari sta succedendo anche in altre città, c'è un saldo nella sostanza che il comune sta pagando, che sta chiedendo praticamente ai contribuenti, e quindi nella sostanza anche con la nuova IUC a partire dal prossimo anno ogni comune dovrebbe impegnarsi a non farci calcolare da soli quello che dovremo pagare, ma arriva a caso un bollettino con le diverse voci, o mi sbaglio? Allora, questo è quello che prevede il disegno di legge per il 2014. Per il 2013 le cose cambiano un po' da città a città, nel senso che per quanto riguarda l'IMU, nella stragrande maggioranza dei casi sono i cittadini da soli a doversi fare i calcoli, da soli o con l'aiuto di un CAF o di un commercialista, che, attenzione, hanno la loro bella difficoltà in questi giorni a mettere insieme le aliquote, però insomma questa è la sostanza. Per quanto riguarda invece il tributo sui rifiuti, che poi in certi casi si chiama TARES, in altri si chiama ancora TIA, in altri ancora TARSU, qui è più consolidata la prassi secondo cui i comuni mandano a casa dei cittadini l'importo già calcolato, ovviamente sulla base dei metri quadri e dell'utilizzo dell'immobile che i cittadini devono dichiarare periodicamente al comune, quindi c'è una diversità. L'anno prossimo, se tutto andrà secondo i piani, dovrebbe essere più semplice. Io dico se tutto andrà secondo i piani perché non è detto. Non è detto, e poi sapete qual è la prima data entro cui dovrebbe essere pagato? Il 14 gennaio, 16 gennaio, letto? Il 16 di gennaio, che è praticamente impossibile. Impossibile, insomma, che i comuni riescano a quantificare appunto per ogni contribuente. Ecco, ma arriveremo a un momento in cui tutte queste tasse si chiameranno allo stesso modo? 800 24 00 24, c'è Luca da Ventimiglia. Ottimo. E poi anche già i messaggi al 349 238 6666. Posso chiederlo a Cristiano? Certo. La domanda di Alberto? Assolutamente sì. Perché io con Cristiano devo usare un po' le pinze, se no mi allargo. È vero che sopra i 240 metri la prima casa passa a casa di lusso e perde i benefici? Cristiano, dipende. No. Un'abitazione, diciamo, che diventa di lusso, dipende dai metri quadri o dipende, come dire, dalla rendita catastale, che è qualcosa di diverso rispetto all'ampiezza, alla dimensione? Esatto, non dipende in realtà né dai metri quadri né dalla rendita catastale, dipende dalla categoria catastale, che è un'altra cosa. Bisogna andare a vedere facendo una visura oppure dal rogito, spesso questa informazione è presente, qual è la categoria dell'immobile, e in particolare le categorie A1, A8 e A9 sono quelle che contraddistinguono le abitazioni di pregio o di lusso, che dir si voglia. E non è detto che queste case poi siano effettivamente case di lusso, e non è detto che tutte le case di lusso siano effettivamente classificate con queste categorie. Questo è un problema di equità, ma il nostro catasto risale come rendite catastali a più di 20 anni fa, e quindi non è sempre aggiornato. Comunque, diciamo questo, la dimensione non conta. Una casa classificata in una categoria media, per quanto grande, per quanto in una posizione centrale della città, per quanto abbia un elevato valore commerciale, non è necessariamente accatastata come casa di lusso. Certo. E quindi non è detto che debba pagare l'IMU sull'abitazione. E quindi principale. Insomma, quello che possiamo suggerire ai nostri ascoltatori è di andare a verificare l'ultimo documento nel quale appunto la categoria catastale è indicata, probabilmente un erogito che indica la proprietà appunto di questa abitazione, per Alberto. Sì, o in alternativa una misura, insomma, una misura. Che non è una misura. Da fare. Andiamo misura. Di misure, Luca da Ventimiglia. La misura. la misura. Buongiorno. Buongiorno Luca. Niente, io volevo solo portare un riferimento a cosa viene in Francia da parecchi anni. Loro pagano due imposte sugli immobili, una si chiama impôt foncier e l'altra si chiama taxe d'habitation. Le pagano a ottobre e la pagano a... È quella, Luca, dice lei, arriva. È chiara, non c'è... È molto semplice, gli arrivano i bollettini a casa, loro adeguano il catasto in automatico e il contribuente non ha altro che andare a versare questo bollettino in banca, in posta o direttamente al bureau des impôts. In Italia stiamo assistendo veramente a una pantomima che è assurda. Lo so. Luca, ma si paga anche sull'abitazione principale? Perché lei sa che il problema in Italia è stato un po' quello di quella forza elettorale, di quel partito che ha... Si paga probabilmente anche molto di più che da noi, però in cambio si ha dei servizi. Il problema è tutto lì. È un altro problema. Noi si continua a pagare tutta questa pantomima qua, però i servizi poi latitano comunque. E grazie. Poi si ha anche paura di sbagliare, perché diventa tutto così complicato. Esatto, ti mandano in confusione per forza, dopodiché se sbagli però ti chiedono subito il resto e naturalmente di ripristinare anche la condizione originaria prima dell'errore. Un nostro ascoltatore ci segnala che gli è già arrivata la sovrattassa per i rifiuti. Abita a Milano, esatto. 90 euro entro 16 di dicembre, mi fermo qua perché poi ci sono... Esatto, perché ha messo anche, come dire, un'esclamazione finale abbastanza colorita, ma Cristiano, è arrivata anche a me, io sono a 59 euro, probabilmente una casa un po' più piccola di questo ascoltatore. Perché il Comune di Milano adesso sta chiedendo questo extra? Ma lo sta chiedendo in realtà in virtù di una norma nazionale, lo devono chiedere tutti i comuni. È una cosa che si pagherà soltanto quest'anno e sono 30 centesimi al metro quadrato di maggiorazione che in qualche modo anticipano l'imposta sui servizi, la TASI, che poi si pagherà nel 2014 e che per quest'anno vengono determinati così. L'aveva previsto una delle manovre degli anni passati ed è un'ulteriore testimonianza di quello che diceva anche il nostro ascoltatore, cioè di come il sistema italiano sia poi poco razionale alla fine nel suo sviluppo, con tasse che si pagano solo per un anno, altre che arrivano all'ultimo e questo mette poi in difficoltà anche i contribuenti. Certo, a proposito appunto delle tre gambe che, come dire, di cui si compone la IUC, Cristiano, la nuova imposta unica immobiliare grava anche sugli inquilini, almeno per la componente riferita ai servizi indivisibili, giusto? È così? È così. Allora, la parte dei rifiuti verrà ovviamente pagata dagli inquilini come è stata pagata finora, la parte dei servizi indivisibili sarà pagata dagli inquilini in una quota variabile tra il 10 e il 30% a seconda di quello che decideranno i singoli comuni. Percento? Sì, esatto, 10-30% dell'imposta totale ovviamente, attenzione, quindi se l'imposta sono 100 euro, una fettina da 10 a 30 euro a seconda delle decisioni comunali verrà pagata dall'inquilino. Allora, 800-24-0024, se vi abbiamo mandato in confusione con questi acronimi, appunto, o ci insultate oppure cerchiamo di chiarirli. No, Max insieme, ad esempio, scrive, l'ipocrisia dei nostri politici non ha fine, avete bisogno di soldi, diteci quanto, senza prenderci in giro con tante sigle nuove e facendo impazzire i commercialisti, che tra l'altro sono in difficoltà perché le aziende, intanto sono arrivate altre, le aziende neanche li pagano, ci scrive Max. E in effetti per i commercialisti questi sono tempi duri, anche perché loro per prima devono interpretare le nuove norme per poi mettere a disposizione le loro interpretazioni appunto a beneficio dei contribuenti. Cristiano, qua, per non parlare del lavoro del Sole 24 Ore, che fa quasi quello che fa il commercialista: prende le norme, le interpreta, le, come dire, rielabora e poi le pubblica. No? Sì, esatto, e in particolare il problema riguarda in questo caso il saldo che deve essere pagato entro il 16 di dicembre per quanto riguarda l'IMU, quindi parliamo dei tributi di quest'anno, non di quelli nuovi dell'anno prossimo, perché i comuni a norma di legge hanno tempo fino al 30 di novembre, perciò il termine non è ancora scaduto tecnicamente, per votare il bilancio preventivo del 2013, quindi immaginate un preventivo che si fa dopo 11 mesi di esercizio dell'anno, e con questo bilancio possono ancora modificare le aliquote IMU, quindi di fatto i commercialisti ma anche i CAF ad oggi non possono ancora dare i modelli per il pagamento e quantificare in modo esatto l'importo dovuto ai propri clienti, perché potrebbe esserci sempre un comune che all'ultimo va a modificare un'aliquota. Tra l'altro era proprio anche la questione che era stata sollevata dalla Consulta Nazionale dei CAF qualche giorno fa, se non mi ricordo male, con il presidente appunto Valeriano Canepari, che è stato anche spesso nostro ospite. Nicoletta, abbiamo qualche ascoltatore? Sì, abbiamo Roberto che ci chiama da Trieste e Paolo da Parma. Vediamo se sono anche loro un po' stressati da queste, perché certo che tutte queste tasse ci mettono un po' d'ansia. Non so se prevarrà il sollievo di non avere più l'IMU, la confusione nel cercare di capire tutto il resto, ma ormai è provato che tutta questa attesa e questo soldi da pagare, certo, ci fanno venire un cardiopalma, soprattutto alle persone che sono già, e lo siamo tutte, ad alti livelli di stress. Roberto ci chiama da Trieste, buongiorno. Buongiorno cara, posso chiedere una cosa? Sinceramente è un po' strano la situazione, il discorso base, tale, quella. Noi da Trieste abbiamo dato tanti nomi, ma per questa tassa è un po' un paradosso, no? Perché per tante case si paga anche in base, non so, anche al millimetro quadro o anche al millesimo di millimetro quadrato, ma però certe case troppo grandi pagano cifre irrisorie, per dire bezzeccolerie. Chi ha un castello paga 10 euro di IMU, chi ha veramente, non so, tipo una casa da 10.000 metri quadri paga ancora meno, e chi ha veramente una casa invece di 60 metri quadri, la insomma, casa paga 500 euro. Roberto, non è giusto. No, non è giusto, sì. Ma queste iniquità ci sono davvero, Cristiano, qualche volta? Purtroppo ci sono e dipendono da quella cosa che dicevamo prima, cioè dal fatto che il catasto risale nel suo aggiornamento delle rendite al mercato immobiliare del 1988-89 e che in molti casi, soprattutto gli edifici più antichi, sono stati accatastati la prima volta dagli anni 40 in poi. E è chiaro che se non si fa un aggiornamento e una riforma seria, poi si possono anche cambiare i nomi delle imposte e i quantitativi delle aliquote, ma la distribuzione del prelievo rimane, certo, in larga parte iniqua. Tra l'altro adesso la riforma del catasto. Esatto, ecco. Un riaggiornamento c'è stato in alcune città, come per esempio a Roma, c'è stata la famosa questione appunto dei parioli, dove esistevano addirittura delle case praticamente fatiscenti, secondo come dire, accatastamenti vecchi. Un riaggiornamento c'è stato, il problema è che però chi abita in case molto belle, ed erano queste secondo il catasto appunto classificate come invece catapecchie, Cristiano, ecco, da ora in avanti magari. Come si chiama questo? Che cosa? Non possiamo dirlo. Il paracarro. Cristiano. Il problema è che è vero, a Roma è stato fatto, l'operazione è stata terminata poche settimane fa, sì, e tra l'altro in questo momento i proprietari del centro storico di Roma, da qui a fine anno, stanno ricevendo e riceveranno le notifiche con le nuove rendite. Ma intanto è stata fatta solo sul centro storico e poi su 8.000 comuni italiani. Questa operazione qui di aggiornamento dei valori, dove lo scostamento era molto marcato, è stata fatta in una ventina di comuni scarsi, quindi è vero, ci sono Roma, c'è una piccola parte di Milano, però la stragrande maggioranza dell'Italia ha ancora tutto da fare. I nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, e vi invito a continuare a farlo se ancora non l'avete fatto, le tasse che stanno arrivando, che sono già arrivate con le scadenze, se hanno avuto una maggiorazione. Andiamo a Parma, che cosa sta succedendo di bello a Parma? Ce lo racconta Paolo, buongiorno. Buongiorno Paolo. Di bello poco, vi chiedo, della tassa. Paolo, non la recuperiamo perché la sentiamo male. Adesso la telefonata è un po' così compromessa. Fabio invece ci racconta che è in provincia di Firenze, è arrivata con solo maggiorazione Tares dal locale gestore Publiambiente. A Savona la Tares quest'anno è già arrivata con la sovrattassa. Fino all'anno scorso pagavo 94 euro, adesso non so bene. Invece Cristiano, no, magari la domanda di Filippo, se ritieni, Nicoletta. La domanda di Filippo, che è molto interessante, la giriamo naturalmente al nostro ospite, a Cristiano Dell'Oste. Come si comporta la IUC con i comodato d'uso gratuiti verso i figli? Perché questa era stata una di quelle situazioni che aveva generato tanta polemica per l'IMU, Cristiano, no? Se una casa data in comodato d'uso non è assimilata ad un'abitazione principale, l'IMU si paga, e come? La IUC? Allora, bisogna scomporre, andiamo per gradi. Sulla parte IMU deciderà il comune, quindi bisognerà vedere quale aliquota stabilirà il comune. Sulla parte TASI di nuovo andrà a decidere il comune, ma, e qui apriamo un punto di domanda, ma lo chiariremo poi con l'interpretazione della legge, tendenzialmente la TASI dovrà essere a carico del proprietario, quindi del genitore che ha dato la casa in prestito al figlio, ma una quota, di nuovo dal 10 al 30%, come nel caso dell'affitto, potrebbe finire a carico del figlio che ha la casa in prestito, perché certo, occupa l'immobile. Mentre, e quindi l'illuminazione della città deve pagarla, esatto, per forza, esatto, per la sua quota. Esatto, la deve pagare per la sua quota, mentre il prelievo sui rifiuti, quello sarà tutto a carico del figlio, come era già quest'anno, perché certo, è colui che occupa, come se fosse l'immobile, un inquilino, certo. Esatto. Eccoci, esatto, qua, lo so, andremo praticamente a finire questa trasmissione con un mal di testa che non termina più, ma abbiamo anche la parte di cuori e poi vedremo se quel colesterolo potremo curare anche questa, Nicoletta. Certo, abbiamo ancora, sì, gli ascoltatori che ci stanno aspettando, mm-hmm, ma noi li facciamo aspettare, sì, anzi, certo, chiediamo a questi cavalieri, a Paolo da Parma, che stiamo ricontattando, a Massimo da Milano e a Giuseppe da Pordenone, di farci da cavalieri e di, sì, traghettarci, certo, con noi dopo i mercati. Ma che non pensino di cavarsela, perché qualche domandina anche sugli altri due acronimi, poi a sorpresa gliela facciamo. Dai, vai. A tra poco. Cuore e denari. Cioè, tu mi vuoi dire che in 4 anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, va, non scherziamo, va, dai, per piacere. Non è poco. E poi, sacco, tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma che difficoltà? La crisi, le tasse. Tasse? Non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ma che tasse è tasse? Ma, signor Cetto, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare. Ma non destare sospetti. Capito, no? Un po' di tasse dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. È fantastico. Infatti, sono usciti tutti di testa, dice Cetto la qualunque, ma non è lui. Ma che tasse e tasse. Esatto, qua effettivamente, però, senza voler offendere nessuno, al Ministero dell'Economia un po' sono impazziti, perché qua se ne inventano una al giorno. È l'ultima nata in casa, è la IUC, Cristiano Dell'Oste. Che tra l'altro qua è arrivato a casa finalmente anche lui. Quindi, esatto, gli ultimi 10 minuti ce li concede in diretta qui in studio. Prima delle sigle del colesterolo, esatto, dai. Allora, dicevamo, IUC è sostanzialmente un ombrello, quindi non è una tassa in quanto tale, ma è una sigla che racchiude 3 imposte diverse, meglio sarebbe dire 3 tributi diversi, che secondo la legge di stabilità partiranno dal 2014. Allora, la prima e la fetta più rilevante sarà l'IMU, che è sostanzialmente quella che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 2 anni e che nel 2014 si pagherà su tutto ciò che non è abitazione principale. Poi ci saranno altre 2 componenti di questa IUC. Una è la TASI, che è un tributo nuovo che serve per finanziare i servizi indivisibili dei comuni e che si pagherà anche sull'abitazione principale, anche se i comuni potranno, avendo le risorse, stabilire l'esenzione. E poi la TARI, che invece si pagherà sui rifiuti e che prenderà il posto della TARSU, che abbiamo, o TARES, che dir si voglia, esatto. Quindi no, speriamo di aver chiarito per Alessandro da Roma, che chiedeva: la IUC si aggiunge all'IMU sulla seconda casa? No, l'IMU è sotto la IUC per questa seconda casa. Senti, dimmi la verità, Cristiano, ma secondo te sembra che si siano impegnati a fare confusione con questi tributi, o ho una nostra impressione? Diciamo questo, che l'esigenza di dare un segnale ai cittadini e dall'altra parte di assecondare le richieste di quella parte della maggioranza che voleva a tutti i costi l'esenzione dell'abitazione principale, hanno portato a creare una sorta di ibrido che alla fine poi non è detto che sia più razionale di quello che avevamo quest'anno o che abbiamo avuto l'anno scorso. L'ascoltatore prima citava il sistema francese, dove ci sono 2 componenti di imposta, una che è la taxe foncière, diciamo, va a comprendere il prelievo sulla proprietà, quindi la si paga in virtù dell'essere proprietari, l'altra, la taxe d'habitation, la si paga in virtù dell'utilizzare quell'immobile e del beneficiare dei servizi del comune. In Italia un sistema così lineare non ce l'abbiamo ancora. Certo. Ecco, dai messaggi dei nostri ascoltatori si respira, insomma, questa sensazione di essere presi un po' in giro. Esatto, ecco. Anche perché oltre alla confusione per la terminologia usata, c'è proprio anche la questione dell'incertezza del diritto e della legge, che impedisce anche a molti contribuenti di prendere altre decisioni della propria vita. Magari c'è qualcuno che deve comprare la macchina nuova, si era messo da parte 2 lire o 2 euro appunto per poter fare questa operazione per la famiglia, ma non sapendo bene che cosa succederà sulla propria casa, perché qua le imposte appunto possono essere di un certo tipo, molto più alte a seconda chiaramente dei comuni, di quelle. Se tu prima eri convinto di avere magari un'esenzione, non è detto che il comune adesso te la tolga, per cui grande incertezza, Cristiano. Questo sicuramente sì, ed è l'aspetto più grave che non il cambio di denominazione, su cui alla fine si può anche un po' scherzare sulle sigle, però il problema vero è che se oggi noi puntiamo a dare un orizzonte di certezza di 6 mesi a un contribuente, ecco, sulla tassazione immobiliare questo orizzonte sono alcuni anni che non c'è. Cristiano mi ha suggerito un giochetto, ha detto possiamo scherzare un po', anche un po', no? Su queste sigle di questi tributi. Allora Cristiano, dici esattamente tutte le sigle e noi invitiamo gli ascoltatori a costruire una sorta di filastrocca. Abbiamo un libro molto bello che vogliamo dare a chi si cimenta in questa prova di creatività. Tra l'altro mettendo da parte anche quella sorta di avversione che abbiamo nel maneggiare queste sigle che ci ricordano, no, delle cose dolenti, come esatto, quello di pagare le tasse, che sono comunque bisogna pagare. Allora IMU, cosa ci mettiamo in questa filastrocca? L'IMU? Dividiamole per tasse sulla proprietà e sui rifiuti, così partiamo, che raffinatezza, così dai. Diamo anche un'informazione. Un cantautore nato, praticamente. Partiamo dalla proprietà, ci mettiamo dentro l'ICI, ci mettiamo l'IMU ovviamente, e poi ci mettiamo la TASI. Se vogliamo possiamo anche mettere tre imposte che non hanno mai visto la luce, che sono rimaste al grado di imposta. Non le evocare, per carità. La TRISE ce la dimentichiamo, non la vogliamo più. Vabbè, ma sai, ha avuto una vita talmente breve, poverina, allora, che... Ma allora se qualcuno Yuk, magari ha così proprio l'ultima. Una canzone... Allora, IUC, scusate, ICI, IMU, TASI e IUC. E perfetto. Questa per la... Per la proprietà degli immobili. Poi, e dei servizi, insomma, comunque diciamo proprietà. Poi abbiamo quella sui rifiuti, e allora partiamo dalla TARSU, che poi diventa TARES, ma che in molte città si chiamava già TIA. Ecco, e che adesso si chiama TARI. E che dal 2014 andrà a chiamarsi TARI. Mamma mia, i rifiuti sono molto complicati, perché come la raccolta allora, differenziata e sigle differenziate. Siccome abbiamo tra un po' il colesterolo che bussa alla porta, sentiamo subitissimi i nostri ascoltatori, accontentiamo questi quattro sulle nuove, appunto, imposizioni sulla casa, così almeno chiudiamo questa parentesi triste stamattina su questa nuova modulazione, appunto, dell'imposta sull'abitazione. Che dici? Chi ti piace? Mi piace Stefania da Napoli, e poi prendo subito dopo Stefano da Milano. Molto bene, Stefania, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo già chiarito questo aspetto, quindi molto sintetica, grazie. Allora, vorrei capire una cosa, perché mi sono persa alla fine anche io nelle sigle, insomma, sia nella suddivisione per la casa, che per la proprietà di casa, che per i rifiuti. Vorrei capire una cosa in maniera molto concisa, cioè perché io che sono inquilina adesso mi dovrei ritrovare a pagare, se mai ci sarà, insomma, questa tassa, certo. TASI. Perché se la sua zona è illuminata, se c'è l'illuminazione pubblica, Stefania, non è una questione legata al proprietario di questa casa, è una cosa legata al comune che mette a disposizione questi servizi, non trova? No, questo volevo capire. Alla fine, quindi, la TASI verrebbe a sostituire, diciamo, la vecchia serving tax che doveva essere per lì, oppure la parte della TARES sull'illuminazione. Brava Stefania, bravissima. Ma Stefania è bravissima. No, che tra l'altro ha rievocato la service tax che ci eravamo dimenticati. Certo, stavanti. Perché poi abbiamo anche questa passione per i nomi inglesi, e quindi per un po' ci eravamo illusi di chiamarla service tax. Allora, la filastrocca, se volete fare con i tributi le sigle per la proprietà, dovete metterci ICI, IMU, TASI e IUC. Invece per i rifiuti, proprio come la raccolta differenziata, ci sono delle sigle differenziate che ritornano: TARSU, TARES, TIA e TARI. A lei con le filastrocche, che così ci alleggeriamo un po'. Esattamente, sempre all'800240024. Peschiamo Stefano adesso, buongiorno. Buongiorno a voi. Rapidissimo, grazie. Certamente, allora io telefono in quanto sono interessato a questo problema in modo particolare per questo punto di vista. Io sono proprietario di un appartamentino a cui ho dato in comodato d'uso gratuito ai miei genitori, in quanto essendo disoccupato ho dovuto fare questo per poter far scaricare il 36% o 50% delle ristrutturazioni, quindi bravissima. Per la capienza. Stefano, allora rapidissimamente dobbiamo capire se in questa casa data in comodato d'uso gratuito ai suoi genitori, chi paga che cosa, Cristiano? Bisognerà vedere cosa deciderà il comune di Milano. Esattamente. Anche lì. perché potrebbe pagare come seconda casa, potrebbe beneficiare di aliquote via via ridotte fino all'esenzione. Però la questione dell'abitazione principale su Milano come è stata disciplinata? Perché in certi casi appunto il comodato d'uso gratuito, essendo assimilata alla prima casa, l'abitazione principale non pagava. Hanno un'aliquota agevolata, quindi un'aliquota ridotta, adesso nel dettaglio quella del Comune di Milano non la ricordo, ma diciamo che la soluzione che è adottata nella stragrande maggioranza dei comuni che prevedono un'agevolazione è quella di avere un'aliquota ridotta. Riusciamo a sentire Sergio da Roma? Dai. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Abbassi la radio perché sentiamo l'eco. Ecco qua, grazie. Io volevo porre questo quesito. Sì. Praticamente ho una seconda casa, praticamente da separato, è stata assegnata alla mia ex moglie con la figlia. Sì. Quindi mentre nell'IMU non ci si pagava la tassa, adesso con la IUG ci si paga la tassa o è esente anche questa? Allora, dal 2014 che cosa succederà a questa persona, a questo contribuente? Fermo restando che bisogna poi vedere il testo finale, perché stiamo parlando del via libera dato ieri dal Senato. Potrebbe essere che tra una settimana annulliamo completamente questa trasmissione, non sarà servita a nulla. Bene. Però in questo caso dovrebbe rimanere per il 2014 la situazione di esenzione che c'era già per il 2013, cioè in sostanza se la casa, l'ex casa coniugale di proprietà del marito in questo caso è stata assegnata alla moglie, vale come abitazione principale della moglie e quindi viene esentata ai fini IMU. Poi si tratterà di capire che cosa succederà ai fini TASI, perché la TASI è un'imposta che si paga sull'abitazione principale, a meno che il comune non la cancelli. Quindi se il comune non cancellerà la TASI sulle case, cosa improbabile perché i comuni non hanno grandi risorse, allora a quel punto bisognerà capire, e questo lo vedremo nei prossimi mesi, se quella TASI dovrà essere pagata dalla moglie in quanto assegnataria dell'abitazione o dal marito in quanto proprietario. Allora, diciamo che stamattina speriamo di non aver generato ulteriore confusione. Non facciamo più trasmissioni su questo argomento fino a quando non avremo a bocce ferme una situazione definitiva. Che qualche ne dice anno, Cristiana? Però, no, praticamente però nel 2014, voi cercate di così lavorare sulle sigle, mandateci la vostra fila strocca con le sigle, perché abbiamo un bellissimo libro di Botticelli per la filastrocca più sensata. Se fanno i bravi tiro fuori anche qualche cosa su Picasso forse. E invece noi, Cristiano, a proposito di sigle, di acronimi, parliamo di LDL e HDL. Che ecco, cosa su sarà? Questo sono totalmente impreparato. Faccio, ti suggerisco colesterolo. Ecco, allora col suggerimento. Eccoci qua. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Pensavo che volessi far fare già un capolino ad uno dei prossimi ospiti. A tutte e due allora. A tutte e due rapidamente, dali i suggerimenti perché in viaggio possono aspettare. In linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Bentornato anche. Sì. E abbiamo anche il nostro dottor Luca Voledo, naturopata, esperto insieme al nostro dottor Speciani del Daily Lab, che potete leggere tutti i giorni sulla pagina di Cuore e Denari. Con loro parleremo di colesterolo, è buono e cattivo, anche lui ha delle sigle, impareremo a conoscerle meglio. Niente, ma soprattutto filastrocca. No, impareremo a descriverlo e a conoscerlo meglio, ma e con i consigli del dottor Avoledo a tenerlo a bada anche con rimedi naturali. A tra poco. Cuore e denari. In che stato mi ritrovo? Tutto sommato direi che sei in buone condizioni. Ok. Ma dai tuoi esami del sangue sono risultate un paio di cose che non mi piacciono per niente. So di che cosa si tratta. Il mio tasso di colesterolo è salito a livelli alti. Esatto. E per questo motivo ho chiesto di fare anche un esame dei lipidi. Cliff, hai i trigliceridi a 350, l'IDL è 160 e l'HDL è 40. Sì, ho un po' esagerato. Un po' troppo esagerato. Solo nei weekend. No, il guaio è che sono goloso di ogni tipo di insaccati, quindi mi sono fatto un panino chilometrico e ci ho anche messo, insomma, l'ho rimpinzato di patatine fritte, così quando lo mangio scroccia tutto. Ah, tanto per assaggiare. Sì, un assaggino, non posso resistere, ne vado matto. No. Ed eccoci tornati insieme. Di solito se ne parla male, ma la fama di nemico pericoloso non è del tutto meritato. Insomma, c'è del buono anche nel colesterolo. Di questo parleremo oggi insieme ai nostri esperti, il dottor Attilio Speciani, il dottor Luca Voledo, che sono in linea con noi, insieme naturalmente a Deborah, che è qua accanto a me. 800 24 00 24, impareremo a destreggiarci anche sulle sigle del colesterolo, come state facendo voi, facendo le filastrocche per le sigle, gli acronimi. Sono davvero affettuosi, se vogliamo, i nostri ascoltatori, che ci accontentano anche in queste nostre richieste qualche volta un po' incredibili, però insomma si stanno cimentando nell'invenzione di queste filastrocche con le nuove tasse, Roberto da Bergamo. Sì, tari, amici miei, aspetta che me la son persa, con Imu e Yuk sono Giacciuk, la tia per mia zia, la tari ci brucia i danari per Tasu e Tares, paga e Tasi, e poi anche altre. Quando sono su pago la Tarsu, quando sono in allegria paghi la tia, quando sono in pari pagherò la Tari, quando mi sarò arreso pagherò pure la Tares e Silvia da Firenze. E vabbè, 800 24 00 24, potete chiamarci, contattarci, scrivere anche al 349 238 6666. Insomma, tanti numeri per dare i numeri del vostro colesterolo e per imparare qualcosa di utile su di lui e tenerlo quindi sotto controllo. Allora, il colesterolo è una parte cattiva del grasso, diciamo, ed è praticamente pericolosa per le arterie, perché l'accumulo del colesterolo nelle arterie può provocare infarto o ischemia cerebrale. Beh, il colesterolo indica la presenza di grassi nel sangue. Per quanto riguarda il colesterolo indica una presenza, diciamo, un tipo di grassi che ha un'incidenza fondamentale per lo stato di salute di una persona. Il colesterolo penso che sia il grasso, la quantità di grasso che si trova nel sangue. Colesterolo, a proposito, sapreste descriverlo, sapete esattamente che cos'è, pensate che sia un nemico della vostra salute, lo controllate ogni tanto e che valori avete? 800 24 00 24. Il dottor Attilio Speciani ha scritto un libro che fa proprio a caso nostro, Colesterolo, amico o nemico. Dottor Speciani, è amico o nemico? Di solito il colesterolo lo temiamo perché è considerato, ed è uno, e sottolineo uno, dei fattori di rischio cardiovascolare, ma di colesterolo si dovrebbe anche parlare bene, perché anche il colesterolo è utile. Ma facciamo immediatamente alcune considerazioni sul colesterolo buono, nel senso che a me piace proprio anche pensarlo in un certo senso come con questa faccia ambivalente, no? Come una maschera in un certo senso, per cui può indossare la maschera da cattivo ma anche la maschera da buono, e se vogliamo dargli un aspetto preciso, ecco che alcune funzioni, questa immagine così che può della persona con la maschera, viene in mente il Carnevale di Venezia, ma sotto proprio ci vedo una damerina vestita con vestitini succinti, proprio perché, questo per ricordarcelo, il colesterolo ha un'ottima funzione, perché di colesterolo sono fatti i nostri ormoni sessuali. Hai capito perché a tanti pazienti, dottor Speciani, perché gliela racconta così, ecco. Anche gli ormoni sessuali, dottor Voledo. Buongiorno. Buongiorno. Verissimo, il colesterolo in sé è indispensabile alla vita, è un componente essenziale delle membrane di tutte le cellule, serve per gli ormoni, come si diceva, per sintetizzare la vitamina D, è addirittura essenziale per lo sviluppo dell'embrione, quindi per evitare malformazioni dei neonati. Insomma, per fortuna che ce l'abbiamo. Per fortuna che ce l'abbiamo, il problema semmai potrebbe essere l'ipercolesterolemia, ma sono sicuro che nel corso della trasmissione vedremo come anche questo spesso sia un problema eccessivamente considerato, certo, enfatizzato. Dottor Speciani, abbiamo collegato il colesterolo agli acronimi, a queste tasse, la IUC, la TIS, la TARSI, con cui i nostri ascoltatori si stanno divertendo a scrivere delle filastrocche, ma anche perché, che cosa abbiamo pensato? Che se la IUC, per chi è proprietario di una sola casa, è la somma di TASI e TARI, il colesterolo totale è la somma dei valori di LDL e HDL. Sì, non è proprio verissimo, perché posso anche complicarla, nel senso che facciamola semplice, dottor Speciani. Ce n'è anche un'altra che si chiama VLDL, ma non sto qui adesso a raccontarla. Diciamo un'altra che puntata. Le cose fondamentali sono proprio HDL, che è proprio il colesterolo buono. Tecnicamente sono le iniziali di high density, cioè l'alta densità, e low density, a bassa densità. Però sono, diciamo, i due su cui si gestiscono poi i controlli e le indicazioni dei farmaci, fondamentalmente. Ed è bello pensare che, anche perché per fortuna la medicina rimane ancora una scienza un po' inesatta, e quindi ci sono almeno due scuole di pensiero che si muovono da questo punto di vista: una che va a considerare solo il colesterolo cattivo, e l'altra, per fortuna, che tiene in molta considerazione il colesterolo buono come uno dei modi che ha l'organismo per difendersi adeguatamente. Posso chiedere, dottor Speciani, se c'è una predisposizione a questo problema o una ereditarietà? Sì, in parte c'è. Devo dire che è una condizione abbastanza limitata, nel senso che ci sono casi in cui questa cosa esiste, famiglie che hanno una storia di ipercolesterolemia familiare sono molto note, molto studiate, molto seguite, molto coccolate, devo dire, anche dalla scienza medica di solito, però il problema vero è delle persone che in realtà mangiano credendo normale e poi hanno tipo di problematicità. E allora, il dottor Speciani, so che ci deve salutare, sì, ma noi continueremo a parlare di colesterolo buono e cattivo, del rapporto che esiste tra questi due colesteroli, e tra come poco tenerlo sotto controllo con l'alimentazione. A tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati, eccoci, insieme. Un saluto. Un saluto da Deborah Rosciani. E da Nicoletta Carbone. E a tutti gli ascoltatori che ci stanno veramente inondando di massime filastrocche con appunto i termini che abbiamo dato prima, che sono legati alla nuova tassazione sulla casa. Poi magari, siccome non facciamo in tempo a leggerle, le metteremo su Facebook. Andate a curiosare, perché ci sono veramente delle espressioni molto divertenti. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. E grazie anche al dottor Luca Voledo, sì, che è rimasto con noi. 800 24 00 24. Parliamo di colesterolo e parliamo sempre anche di sigle LDL, HDL. L'indicazione che il dottor Speciani ci ha dato e su cui noi vogliamo tornare è che esiste un valore totale, ma non fermiamoci a quello. Dobbiamo considerare attentamente i valori del colesterolo cattivo, che tende ad occludere le arterie, di quello buono, che possiamo invece paragonare a uno spazzino che ripulisce le pareti dei vasi e impedisce quindi la formazione di quelle famose placche aterosclerotiche che ci fanno tanta paura. Però si può fare di più, e lo faremo oggi anche con il dottor Avoledo, voi potrete fare così: prendete gli ultimi esami del sangue in cui sono riportati i valori del colesterolo, prendete una calcolatrice, dividete il colesterolo totale per il valore del colesterolo buono. Fate il vostro calcolo e chiamateci 800 24 00 24. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e benessere. Il colesterolo, non so più che cosa fare, al burro e al pane non so rinunciare. Noi abbiamo invitato a scrivere la filastrocca sullo IUC, la Tasi e la Tari, ma pure questi che si sono inventati la canzone sul colesterolo. L'ha trovata Laura Vanossi. Eccoli là. Dottora Voledo, l'aveva mai sentita lei? Certo. Questa veramente. Come è possibile che non l'abbia mai sentita? Dottora Voledo, è quasi l'ora di pranzo e noi iniziamo a controllare il nostro colesterolo partendo da quello che mettiamo in tavola, ma con una precisazione. Dottor Voledo. Ce l'abbiamo davvero negli occhi questo colesterolo. Adesso daremo ad ogni medico che viene in trasmissione un nome nuovo in relazione alla competenza specifica che hanno. Sì, dottora Voledo, perché quello che mangiamo conta, ma fino a un certo punto. Conta molto poco, questa è una cosa che va detta, nel senso che un errore molto frequente crede che il colesterolo che abbiamo nel sangue provenga tutto dai cibi, dall'alimentazione. In realtà al massimo, ma veramente molto al massimo, solo il 20% del colesterolo proviene dall'alimentazione. la maggior parte, quindi l'80%, è di origine, si dice, endogena, cioè viene prodotto da noi, dall'organismo, in particolare dal fegato. Per fare dare un'idea, il fegato ne produce anche fino a 2 grammi al giorno, mentre con la dieta ne assumiamo 200, 300, 500 milligrammi al giorno, una parte molto bassa. Questo però non significa che possiamo mangiare tutto quello che vogliamo, anzi una dieta sana ed equilibrata, e poi il dottor Avoledo ci insegnerà a combinare alcuni alimenti, ci parlerà anche di superalimenti, dottor Avoledo, possiamo richiamarli così, o di rimedi naturali, perché no? Che ci aiutano a fare una cosa essenziale, a tirare sul colesterolo buono e a tenere giù quello cattivo. Molto giusto. Ci piace. È l'azione, senta, più interessante. Dottor Avoledo, lei sa che è venuto Putin e che si è lamentato del traffico di Roma? Sì, si vede che è più attento, è molto attento alla circolazione stradale, ma appunto so che... Però ha messo le gambe sotto il tavolo e se l'è data, cioè su quello non si è lamentato. Ha stramagnato tutto quello che ha trovato. Più la circolazione stradale che la circolazione sanguigna. Una bella vodka ha digerito tutto. Abbiamo il menù che noi vogliamo leggerle e per vedere se ci sono dei cibi amici del colesterolo o no. Insomma, lui si è preoccupato del suo del traffico di Roma. Vediamo se... Vado a leggere. Il menù per il signor Putin: tortelli di parmigiano con crema di zucca. E qua perché ci mettete a questa dura prova, visto che è quasi l'ora di pranzo? Lombata di vitello al timo, patate fondenti, indietro di cottura, direbbe il dottor Speciani, sformatini di verze e castagne, funghi porcini e torta di pere al cioccolato. Non è proprio, come dire, un pasto light, dottor Avoledo. No, però appunto... Seme li nanno, licet insanire, come dicevano gli antichi, quindi non è quello che facciamo ogni tanto che ci fa male, ma quello che facciamo ogni giorno, visto che Putin è venuto nella nostra bella capitale, che si goda anche la squisita cucina romana. Sì, e poi soprattutto non si lamenti sto Putin, che non si lamenti. Perché non so com'è la cucina russa da questo punto di vista. Ma che se la tenga anche, esatto. Volendo però, come dire, per un'ipotesi di scuola, perfezionare i menù di Putin in chiavi anticolesterolo, o meglio di promozione del colesterolo buono, perché questo è un aspetto interessante, avrebbe per esempio potuto sostituire la lombata di vitello, se non ricordo male, con del pesce azzurro, come che in Italia appunto ne abbiamo di squisito, sardine, sgombro, alici, e magari arricchire gli sformatini di verze e castagne con un trito di frutta in guscio, noci in primo luogo, ma anche pistacchi non salati, pinoli, nocciole, perché sia il pesce che la frutta in guscio sono interessanti fonti di acidi grassi essenziali omega 3, che sono in grado di influire in maniera molto decisa e positiva sul rapporto HDL-LDL, colesterolo buono e colesterolo cattivo. Quindi riequilibrano questo rapporto. Vogliamo sentire i nostri ascoltatori tantissimi, che stanno veramente saltando la barriera rosa, la stanno travolgendo. 800-24-0. Ho delle immagini terribili. Esatto, poi ci sono tre donne in attesa. È molto curiosa questo aspetto, che siano le donne soprattutto sensibili al problema del colesterolo. Ma è statisticamente così? Qual è la tua esperienza con Essere Benessere, Nicoletta? Che le donne sono fantastiche. Eccole e si là. Preoccupano del loro e di quello dei loro compagni. Ci tocca. Agnese, buongiorno. Agnese da Brescia. Brescia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno dottore, volevo chiedere una cosa. Io ho fatto per caso un esame al colesterolo 2 settimane fa. Il mio colesterolo totale è 2,70. L'LDL 182, l'HDL 75, trigliceridi 63. Dopodiché mi sono terrorizzata, perché ho detto: non è possibile che io abbia, sono magra, non bevo, non fumo, non faccio attività fisica, tutte queste cose. Vado dal mio medico e il medico dice: no, ma è vero, è tutto molto alto, potresti decidere di prendere o le statine o fare una cura alternativa. Posso fare i nomi dei medicinali? No. Sì, prenderà dei farmaci per delle statine. Ma venga la domanda, Agnese, quindi? La domanda è questa, cioè io siccome faccio una vita molto sana, mangio molto sano, frutta, verdura, eccetera. Perché questo colesterolo? Ecco, cosa sbaglio? E cosa devo fare? Devo fare solo riso rosso tutta la vita? Cosa devo fare? Allora, sentiamo il dottor Avoledo. Dottor Avoledo, sono in tanti che dicono: ma io sto a dieta, sto attenta, faccio un po' di attività fisica, non bevo, non fumo, eccetera, sto colesterolo, perché? Dottore? Ci sono diversi motivi. Uno molto interessante, appunto ne parlava il dottor Speciani, è una forma di ereditarietà per il colesterolo alto, si arriva a livelli anche molto sì. alti, di 400-500. Lo stress, e lo stress non vuol dire solo lo stress del manager, ma anche uno stress molto meno forte, è un fattore di produzione del colesterolo e quindi dell'ipercolesterolemia, e quindi persone che magari hanno una dieta perfetta, fanno anche attività fisica, ma hanno un forte stress, hanno livelli di colesterolo alti, trigliceridi alti, come diceva la signora, e anche una cattiva relazione colesterolo buono, colesterolo cattivo. In più, quando si parla di dieta, bisogna vedere cosa vuol dire appunto mangio bene, perché tanti lei non ci crede. Non lo so, andrebbe valutato, perché alcuni dicono tolgo il colesterolo alimentare, quindi tolgo i formaggi, tolgo le uova, e invece questo è un errore. Molti non sanno che i cibi che promuovono la formazione di colesterolo nel sangue sono per esempio i carboidrati, la pasta, il pane, i dolci e i cibi di questo tipo, che chi non si tende ad associarli a livelli di colesterolo elevati. Allora, c'è questa signora, questo direttore dell'Accademia di Naturopatia, che ci scrive, chiede una cortesia per correttezza di informazione, ditelo che il dottore Avoledo è un naturopata, lo stimo, eccetera, eccetera. Ma l'abbiamo detto, ma se voi ci seguite dopo e poi ci scrivete, esatto, seguiteci ci dall'inizio. Un abbraccio al nostro ascoltatore che ci richiede questa puntualizzazione un po' inutile. Vilma da Udine, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Brava Vilma. Vi seguo giornalmente, imparo tante cose. Ottimo. Anche oggi, perché avendovi ascoltato adesso, mi avete quasi risposto. Senza sapere, tutto, noi parliamo, vede? Perché ormai ci prendiamo talmente a cuore. Perché i problemi. Vilma, cosa abbiamo? Perché io vi dico solo un fatto, io per due persone faccio più di 200 grammi di pasta. E mi sembra un po' eccessivo, mi è sempre sembrato un po' eccessivo, avendo sentito adesso che potrebbe incidere anche sul colesterolo, ridurrò questo. Brava. Però d'altronde io faccio una dieta equilibrata, mangio i semi di canapa, mangio i semi di lino, sesamo, le noci tutti i giorni, una colazione molto sana. Ma Vilma è perfetta, dottora Avoledo. Sono perfetta perché io ho il colesterolo totale 254. Però, dottora Avoledo, potrebbe essere un consumo eccessivo di carboidrati? Sì, potrebbe essere perché appunto i carboidrati, che poi vengono tutti, appunto pane, pasta, cereali vari, dolci, prodotti da forno, vengono tutti trasformati in zucchero nel sangue, in particolare in glucosio, e quelli che non vengono utilizzati, l'eccesso di glucosio, viene stoccato, convertito in acidi grassi e in colesterolo. Quindi i carboidrati sono di fatto dei precursori del colesterolo e dei trigliceridi. In più aumentano la produzione di insulina, che è un ormone, anche lui associato a livelli alti di colesterolo e trigliceridi, e l'insulina è un attivatore proprio di quell'enzima che nel fegato fa produrre il colesterolo. Quindi ridurre una quantità eccessiva di carboidrati sicuramente è un'indicazione che va tenuta in considerazione. Dottora Avoledo, ma per chi volesse non rinunciare alla pasta, che è un bel piacere, ci sono degli accorgimenti? Sì, per mangiare i carboidrati prendendone solo il buono? Senza farsi troppo del male. Bravo. Appunto, senza esagerare ovviamente, però una soluzione potrebbe essere quella di abbinare ai pasti i carboidrati insieme a una quantità più o meno equivalente di proteine, quindi al secondo. Questo permette di avere dei picchi glicemici, diciamo, quindi degli innalzamenti degli zuccheri molto più moderati, ed è un aiuto in tal senso. Un'altra considerazione che si può fare, per esempio, è di preferire i carboidrati cereali integrali rispetto ai raffinati, che alzano molto meno la glicemia e quindi richiedono un intervento dell'insulina, che è questo ormone implicato anche nei livelli elevati di colesterolo, un intervento dell'insulina minore. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, ma anche per dirci se avete fatto il calcolo del valore del vostro colesterolo. Come si fa? Prendete gli ultimi esami del sangue, vi indichiamo di nuovo proprio questa è la donna seguire. Di denari, eccola, è precisa qua, esattamente. Prendete la calcolatrice, dividete il valore del colesterolo totale per il valore del colesterolo buono, la sigla è HDL, fate il calcolo, chiamateci ma all'800 24 0024 e vedremo come il dottor Ravoledo che cosa vi racconterà interpretando questo numero, aiutando magari a riequilibrare appunto i valori. Mauro ci chiama da Roma, buongiorno. Buona giornata. Buona giornata a lei. Grazie dell'ospitalità. Io volevo fare una semplice domanda. Da anni ho il colesterolo sotto il minimo e io ho 58 anni. Apparentemente potrebbe sembrare una cosa positiva, ma vorrei esserne capitato sicuro, anche a me. Nel senso che se c'è un minimo probabilmente c'è anche un perché. Io sono sotto il minimo. Lei è sotto il minimo. Dottor Avoledo, anche questo è un problema? Di quale colesterolo parla? Di quale valore? Mauro, è totale? Quello complessivo, il totale? Sì, totale. E quindi che valori ha? Sì. Mauro? 58 anni. No, che valori di colesterolo ha? Allora Mauro, l'indicazione è quella. Noi comunque siamo a vostra disposizione, Deborah voleva ricordarlo. Sì, anche per il tema che abbiamo affrontato in precedenza. Se ci volete continuare ad inviare i vostri quesiti, abbiamo i geometri fiscalisti di Agefis appunto che ci aiutano, ma che non risponderanno sul colesterolo. Esatto, ma risponderanno sulla nuova IUC, sull'IMU, sulla TARI, sulla TASI e quant'altro. E a Mauro e agli altri ascoltatori che volessero avere delle indicazioni sul loro valori, mandate la vostra mail e Cuore Denari insieme ai suoi esperti vi fornirà una risposta. Ecco, ma il fatto che il valore complessivo sia sotto il minimo non ci dice comunque nulla? Dottor Avoledo? No, non è un valore preoccupante, se mai potrebbe essere il contrario. È chiaro che certe considerazioni che facevamo all'inizio, tipo che il colesterolo è implicato anche nella sintesi degli ormoni sessuali, questo potrebbe avere delle ricadute da quel punto di vista, quindi sarebbe una situazione da indicare, portando l'attenzione del medico, per capire per quale motivo questi valori sono così bassi. Allora, oggi vorremmo parlare anche con il dottor Avoledo di rimedi naturali, di superalimenti che aiutano a tenere il colesterolo sotto controllo. Ma dottor Avoledo, i nostri ascoltatori sono già molto bravi e cosa fanno? Già ce li suggeriscono? Allora vediamo, un ascoltatore mi scrive: la mia nutrizionista mi ha fatto prendere olio di semi di lino e mi piace una brancata come si dice in Piemonte, una manciata, ecco, vedi che io non capivo che cosa significa una branca di avena nello yogurt magro. Allora, semi di lino e avena ci piacciono? Sì, ci piacciono. I semi di lino, proprio perché in particolare contengono omega 3, come dicevamo prima, come tutta la frutta in guscio, le noci, eccetera, eccetera, quindi migliorano il profilo lipidico. L'avena si è visto che contiene delle sostanze che si chiamano beta-glucani, che hanno un'azione importante nell'abbassare i livelli di colesterolo, quindi sono due ottime indicazioni. Meglio per certi versi, per ritornare agli omega 3, il pesce comunque che le fonti vegetali di omega 3, perché nel pesce ci sono degli omega 3 più efficaci che si chiamano EPA e DHA per migliorare anche i livelli di colesterolo e di trigliceridi. Allora potrebbe essere corretto quello che fa la nostra Denise dalla provincia di Treviso all'800 24 0024. Denise, ci dia un po' la sua ricetta per combattere il colesterolo, per prevenirlo. No, non è per me, nel senso, intanto saluto tutti, grazie di avermi richiamato. Grazie a lei. Era mia mamma, 78 anni, soffre ovviamente da anni di colesterolo. Quest'estate ero negli Stati Uniti, mi ha detto comprami delle confezioni di fish oil che mi hanno consigliato, e io volevo appunto sapere se è una cosa che fa bene, che aiuta, e soprattutto se anche io, che ho 47 anni, non ho problemi attualmente di colesterolo, ma mio marito, cioè, se andando avanti è suo marito che le fa venire il colesterolo, secondo lei? Può darsi, perché la vuole sempre lì a spadellare, no, naturalmente, con le cose gustose, belle grasse, chi ci stressa ci fa venire il colesterolo. Dottor Avoledo, il fish oil, tra l'altro adesso ci scriveranno anche che naturalmente lo possiamo trovare in Italia nei negozi biologici, eccetera, però insomma Denise l'ha acquistato negli Stati Uniti per sua mamma, va bene? Si trova ovunque ormai, ecco, in qualunque farmacia, erboristeria, negozio di alimenti naturali, anche al supermercato. L'importante è verificare che contenga dei dosaggi interessanti. L'olio di pesce in particolare è proprio quello che ci interessa, sono gli acidi grassi essenziali omega 3, EPA e DHA presenti nell'olio di pesce, sono a mio avviso l'integratore alimentare più importante contro non solo l'ipercolesterolemia, ma per difenderci da tutte le malattie cardiovascolari, quindi è un'ottima scelta. Consiglierei di arrivare almeno a 1000 mg complessivi al giorno di EPA e DHA, cioè questi acidi grassi. Vedi. Guardate in etichetta se si arriva a questi valori. Abbiamo iniziato con le sigle, acronimi, non un ascoltatore. Non ce le togliamo più di dosso. Non ce le teniamo più. Mi dica il numero, dottora Voledo, che bisogna avere dalla divisione tra il colesterolo totale e quello buono. Qual è il numero salvacuore? Ecco, perché appunto è importante questo rapporto, non tanto il colesterolo totale. Mi dica il numero. Allora, negli uomini deve essere inferiore a 5, nelle donne questo rapporto deve essere inferiore a 4,5. Questi Perfetto. Sono i valori importanti. Enzo da Milano, che ha un rapporto 4,3, vince il nostro libro oggi, perché si cura e bravo. Insieme anche alle filastrocche. Dottora Voledo, grazie, speriamo di vincere una puntata con lei qua in diretta. Ci venga molto a trovare, volentieri. Eccoci qua, tutti per lei. Grazie. Noi Gianmarco abbiamo... Ferronato in regia alla parte tecnica, i nostri Marco angeli custodi, Laura Vanossi in redazione. Se tu, noi andiamo. Noi andiamo, è terminata questa puntata. Che peccato, a domani.